La descrizione mediante metafore. Yoga del conseguimento degli insegnamenti sono simili all'uccello che nutre il suo pulcino. Se si fanno uscire dalle proprie labbra gli insegnamenti, si è come un uccello d'autunno che muore di fame. Allora si vagherà con sicurezza nel samsara, il ciclo di morti e rinascite. Come la buona femmina dello yak, che nutre il piccolo vitello, se essa stessa adempie al compito di aiutare il suo piccolo saziandolo ed aiuta pure gli altri, ciò vuol dire che essa nutre dei vitellini ed altri ancora. Così, se si taglia la corda del proprio giudizio, sicuramente gli esseri senzienti si libereranno e senza alcun dubbio si otterrà il beneficio per gli altri. L'aquila che vola nel cielo vede i quattro continenti senza sforzo. Nei dirupi dei precipizi va senza paura. Con il suo splendore domina gli uccelli comuni e gli altri raggruppati in stormi. Così, se si prende una decisione risoluta, si comprende che i quattro Bdud sono privi di radice. Si dominano gli spiriti malefici e gli altri Bdud. Non c'è paura degli altri luoghi di dannazione. Comportarsi secondo le leggi della causa e dell'effetto, senza sapere che in verità la realtà è priva di radice, e agire come un cieco che brancola nel buio. Lo yoga della reale comprensione dell'assenza di radice. Conoscendo che i pensieri ricordo sono improvvisi, senza né accettare né rifiutare, si agisca secondo il Dharma, la legge naturale. Vedendo le forme, si percepisce secondo la dimensione del kaya della mente. Ascoltando i suoni, si percepisce secondo la dimensione del vak della mente. Pensando qualsiasi pensiero, si percepisce secondo la dimensione del citta della mente. Essendo causa ed effetto unificati, si percepisce secondo il senso essenziale della non esistenza.